come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Professore, professore, me la cambi per favore, quella faccia un poco triste, quel suo livido pallore. Professore, io la prego, professore, me lo faccia per favore. Beh, caro Parenzo, la notizia di oggi è che mi cadono le braccia. Mi sono cadute definitivamente le braccia. Parli di Monti, lo sì, so già. Sì. Basta, basta, non ne posso più, non ne posso più. Questo governo è finito, ha chiuso la sua corsa, non c'è più tempo per fare nulla, perché quando un premier comincia a parlare di poteri forti che non danno più l'appoggio, critica i giornali e ti ricorda qualcuno? Ti ricorda il Cavaliere, il signor Cavaliere? Beh sì, lo diciamo anche qui a Radio 24, TGCom 24, è uguale al Cavaliere, senza però quella freschezza, quel bunga bunga, quel sapore di vita che dava. E bravo, è proprio così, senza quella vitalità, senza quella, no? Quello un fombit, quello spirito vitale. Senza quei frizzi e lazzi, senza quella comicità. Insomma, se mi deve parlare qualcuno dei poteri forti e dei giornali, allora è meglio Berlusconi, o no? Ma perché lui, scusa, adesso voglio per capire, io sai che sono a favore del governo dei tecnici, ma il signor Monti non è espressione dei poteri deboli, forse, il signor Monti? No, infatti, comunque, chiedo. Facciamo ascoltare al popolo della zanzara quello che ha detto oggi Monti e confrontiamolo, però, perché qui voce canta, no? L'archivio della zanzara. E con quello che diceva pochi mesi fa. Iniziamo da oggi, oh. Poteri forti. Lo so che sei deluso anch'io. No, in parte. Sono sospirato perché io ho sempre l'insegnamento di Luttuak, però, del professor Luttuak, quello di ieri, che faremo risentire. Intanto Monti di oggi. Sì. Il mio governo e io abbiamo sicuramente perso in questi ultimi tempi l'appoggio che gli osservatori ci attribuivano, spesso colpevolizzandoci di questo, dei cosiddetti poteri forti. E poi attacca il Sole 24 Ore, Confindustria, il Corriere della Sera e chi più ne ha più ne metta. Ma noi non è che critichiamo Monti per questo, noi che ci frega? Allora, non incontriamo favore in questo momento in un grande quotidiano che è considerato rappresentante, voce autorevole dei poteri forti, non incontriamo particolare favore presso la Confindustria, ma scopro oggi, e me ne rallegro moltissimo, che il potere fortissimo, non forte, quello dell'ACRI, apprezza la nostra. Prego, professore. Me lo faccia per quelli di voi che sono riusciti a capire cosa diceva Monti, insomma, il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, Confindustria, eccetera, eccetera. Il 20 novembre, sentiamo. A proposito di conflitti di interessi, poteri forti, eccetera, a parte che io di poteri forti, lo dico con molto rispetto, di poteri forti in Italia non ne conosco. Magari l'Italia avesse un po' di più qualche potere forte. Per carità di patria mi fermo qui. Anche perché dopo un po' la voce di Monti, devo dire la verità, mi annoia. Per carità, non sto mettendo in discussione nulla, però dopo un po' mi annoia la voce di Monti. Ma viene usata per la terapia del sonno, eh? Ah, dici? Il nuovo provvedimento viene usato in alcuni reparti per la terapia del sonno, quando i bambini, sai, qui. Però certo, poi senti Scilipoti e dici, vabbè, forse... Forse è meglio quello che c'è adesso, forse. Monti scarso in economia, torni sui libri. Parla Scilipoti. Il professor Monti si sta rivelando assai scarso in quelli che sono i fondamenti dell'economia. Forse sarebbe il caso di tornare sui libri prima che ad essere bocciato con conseguenze gravissime sia il nostro paese. Professore, professore! Scilipoti, Monti deve tornare sui libri, però ridatemi lutto, ecco, ridatemi lutto che mi viene in buon umore. Lo scopo di un primo ministro tecnocratico è di essere cattivo, di essere duro, di farle lei precario da una vita. Abbiamo già un ospite che frigge, che è con noi. Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi? No, mi adoro quando dice deve essere cattivo. Eh beh, certo, ha ragione. Economia, riforme, spezzare, raddrizzare le gambe ai sindacati, inutili, sindacato inutile. Mughini, carri armati contro le elezioni. Non sono d'accordo in questo caso, non è che le elezioni sono no, lui non vuole le elezioni perché dice non cambierebbe nulla e dunque i carri armati contro le elezioni. Senti, era un po' polemica, diciamo, rispetto a Fassina, no, che aveva dato quelle dichiarazioni. Le elezioni schiererei i carri armati purché non si facciano elezioni, perché con le elezioni non c'è da trovare nessuna risorsa segreta nei cassetti. Il giorno dopo le elezioni il debito pubblico è quello che è, la disoccupazione giovanile è quella che è, i soldi che lo Stato deve alle aziende che hanno consegnato il lavoro è quello che è, e posso continuare all'infinito. Le elezioni non smuovono un chiodo. Sì, d'accordo, però a questo punto, caro Mughini, sai quanto ti voglio bene, però eliminiamole direttamente, cioè non votiamo mai più e affidiamo tutto, non so, ad un gruppo di ottimati e andiamo avanti in questo modo, va benissimo, per carità, però a un certo punto bisognerà pure tornare a votare, no? Non è che se si torna tra 7 mesi la situazione è diversa. E andiamo però, andiamo a sentire chi? Andiamo a sentire, gli amori di Giuliano Ferrara, gli impulsi erotici di Giuliano Ferrara. La stalla di Parla per Bianca Berlinguer subito, perché la amo, quindi, vabbè, ma lì è un fatto erotico, erotico, sì, la amo. Amo eroticamente la Berlinguer e anche la, come si chiama quella con quella faccia da indiana bellissima che presenta il TG3? La Cuffaro, ma meravigliosa! Vorrei avere un flirt e la Berlinguer insieme. Ed eccoci qui, questa è la Zanzara, abbiamo appena iniziato e vi abbiamo fatto risentire gli impulsi erotici di Giuliano Ferrara. Ieri qui alla Zanzara c'è con noi una grande donna, ancora piena di vita, scoppiettante. Tina Anselmi? No, che c'entra Tina Anselmi? Grande partigiana? No, bene. Ma che c'entra Tina Anselmi? No, chiedevo. Donna Assunta Almirante, buonasera. Buonasera. Come sta? Che ride? Mi è piaciuta moltissimo la terapia del sonno. Ah, di Monti, dice lei. Pure a lei la terapia del sonno, gliel'ha detto lei, l'ha detto qualcuno che ha intervistato. No, è una battuta di Parenzo, ogni tanto le azzecca. È bellissima, è proprio azzeccata quella, eh? Lo so, ma è azzeccatissima la terapia del sonno. Anche a lei fa lo stesso effetto? Sì, quasi sempre. Quando solo va... che poi poverino è, oltre che la terapia del sonno, sembra che abbia qualcuno dietro che lo rovini, perché noi il terremoto non lo pensavamo, pensavamo alla miseria, pensavamo alla tragedia, tutte queste cose, ma addirittura sto terremoto così forte, così importante, non c'è. Ma addirittura, ma scusi, che c'entra Monti Pocanza, addirittura che sono scoppiate due palazzine di due famiglie, sì. Ma che erano prese la vacanza vicino a Bari, e che addirittura due bombole sono scoppiate e sono morte quattro persone. Ma lei dice che porta sfiga, questo vuole dire? Ma io no, non è che dico che porta sfiga, ma dico che è sfortunato. Ma scusi, è sfortunato perché lui cercava di risolvere il problema finanziario, invece in questa maniera è aggravato in una maniera impossibile sistemarlo. Però la dica tutta, donna Assunta, appena vede Monti in televisione lei tocca ferro o no? No. Quello... Non guardo per niente. No. Senta, chiudo perché tanto ripete sempre le stesse cose e abbiamo visto che col governo tecnico non cambia hanno nulla. Chiuso le scuole tecniche e hanno aperto questo, ecco. Oh, partigiano. Le scuole tecniche erano un affare per i giovani, no? Che si procuravano poi lavoro. Scusi un attimo, le hanno chiuse come le scuole industriali. Scusi un attimo, donna partigiano. Ma che fai? Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ma guarda ciao, che non gliene frega ciao. Niente a donna Assunta della canzone dei partigiani. Ma non gliene frega niente della bella ciao. Ma che gliene frega la bella ciao? Partigiano. Non è mica contro i partigiani, portatelo donna. Portatelo via. Chi? Parenzo, portatelo via. Parenzo. O partigiano, portatelo via. Come portatelo via? Chi è che dobbiamo portare via? Donna Assunta. No, lo sta cantando lui, no? Sì, appunto. Chi è che canta partigiano, portalo via? Ma lei, sono io. Lei l'ha mai cantata? No, io mai. Mai, No, non interessano. Io faccio tutte quelle cose che mi danno interesse. Certo, adesso non la metta, non la metta così. E quando canto, canto qualcosa di diverso. Faccetta nera canterà. Che mi riempie la vita, che certo. Mi dà la gioia. Ma Faccetta nera l'ha mai cantata? Ma sì, la conosco pure. Bella, è molto carina. Com'è che fa? Non mi ricordo Marie più. Marie Marlene, ma pure questa. E cosa vuole sentire? Faccetta nera, com'è che faceva? Faccetta nera, bella bisina. Ecco. Poi? No, bello, lei ha una bellissima voce. Com'è che fa? Sì. No, oppure io canto sempre Calabrisella. E come fa? Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, facimmo amore. La Calabrisella morire mi fa. Siamo al top qui, siamo al top. Però dopo il traffico riprendiamo e direi con un bel Faccetta nera intonato bene da Donna Assunta Almirante. Mettiamo anche un piccolo sottofondo. Poi le voglio chiedere di questa storia della via di Almirante. Alemanno si sta battendo come un leone, nonostante l'opposizione dell'Associazione Nazionale Partigiani e di varie associazioni ebraiche che non vogliono la via intitolata a suo marito, Donna Assunta. Com'è possibile? Voglio capire se lei è favorevole o contraria, perché mi sa che lei non gliene. Sentiremo dopo. Va. Professore, ma il professor Monti, ma di che parliamo? Sono battute da Cabaret, da Zelig, i poteri forti, i giornali contro di me. L'abbiamo sentito da Berlusconi, basta. Com'è la battuta di Parenzo che oggi è molto apprezzata da Donna Assunta Almirante? Com'è? La terapia del sonno. La terapia, la terapia del... Ma non è una battuta, è vero. Beh, è vero molti... cosa. È vero che in molti quando sono i bambini problemi sono ipercinetici, cioè si muovono troppo, sono agitati, sì. Anziché dare pilloline, farmaci, eccetera, mettono allora, i discorsi alla televisione. Esatto. Sì, no, mettono i discorsi parlamentari di Monti, conferenze stampa che durano 2-3 ore, ma che nel giro di 5 minuti il bambino è cotto, finito, si sveglia il giorno dopo. Indicazioni di Parenzo. Bellissimo, mamme, guarda. Che avete bisogno. E quindi può essere consigliata invece di prendere i sonnifori che sono praticamente che fanno molto male con l'uso permanente, esatto. Potete continuare ad accendere la televisione anche per chi ha l'insonnia. Certo, non c'è perché dubbio. Perché arrivata ad una certa età si dorme meno. Ecco, io li consiglio anche a lei. Lei dorme bene? Se è efficace, allora adoperiamola. Ma lei dorme bene, Donna Assunta? Io dormo benissimo e dormo pure tanto. Dunque non ha bisogno dei discorsi di Monti. No. Benissimo. Allora, però, non mi interessa proprio. Guarda. Però voglio che lei brevemente intoni questa meravigliosa canzone che le ricorda un periodo ormai andato. Meravigliosa. Se diciamo la verità, meravigliosa, perché comunque meravigliosa nel suo genere, non sto dando giudizi, meravigliosa. Partiamo, via. Faccetta nera, com'è che fa? Donna Assunta, mi segue. Allora si avvicina, quando saremo vicino a te, noi ti daremo un'altra patria e un altro re. Non era il Duce, scusi. Io dico una patria. E perché dice patria? E mi piace la patria. Ma no, lei. L'amo più degli uomini perché è la terra mia. Ma però c'era un passaggio. Ma c'era anche patria o l'ha messo lei la patria? Io la sapevo così. Ma lei vuole fare la politicamente corretta, vuole fare? No, io la cantavo così. Se noi ci daremo un'altra patria. È un altro re. È un altro re. Purtroppo non c'è. È perché lei è più monarchica, è stata io più. Io sono molto. Ero monarchica. Io vengo da una famiglia monarchica. Certo. Scusi un attimo, ma la via di Almirante sa da fare o no a Roma? Io direi di lasciarlo tranquillo. Bravo. Per il semplice fatto che quest'uomo ha avuto una vita molto agitata e lo vogliono continuare a tenere sveglio e agitato anche dopo 24 anni della propria vita, della propria morte. Sì. Quindi io direi sì. Che si preoccupano di fare strade per loro, per i loro amici, per la gente a loro vicina, sì. Ma che lo lasciassero in pace. Oh. Ecco, invece sì. Potrebbero ricordarsi, visto che adesso è uscito fuori la storia del presidenzialismo, di pensare a colui che l'aveva già pensato questo presidenzialismo tanti anni fa. E chi era? Tant'è vero che io sono in biblioteca per trovare questo libro di cui vi parlo del presidenzialismo. E chi era sto personaggio? E lo vorrei fare, lo spedisco a chi gli è ha sembrato di fare una cosa grossa. Ma chi è che l'ha preferito? Io gli dico che qualcuno prima di lui l'aveva pensato. E voleva credo che attuare, sia Almirante, ecco, stesso, no? Almirante stesso, o sbaglio? Eh? Almirante stesso ci aveva pensato. No, lui non solo ci ha pensato, ma c'è scritto un libro. Scusi un attimo. Ha fatto processo al Parlamento, che ha fatto due volumi enormi. Processo al Parlamento. E mette il presidenzialismo. Scusi un attimo, donna Assunta, però allora facciamo un appello ad Alemanno. Lascia stare. Che io gliel'ho detto da vicino. Sì. Ecco, cioè seduto sul divano accanto a me. Sì. Ti prego di non parlare più della strada d'Almirante. Oh. L'ho detto al maestro. Al grande maestro, non so come si chiama, Pacifici. Sì. Gliel'ho detto con il microfono in mano su un palco del Teatro Valle. E lui? E lui mi ha detto che gliela propongono e lui dice di no. E allora pensate alle vostre strade. Cercate di fare. Non hanno capito che io gli auguravo una morte immediata. Non l'hanno capita questo. A chi? A quelli che propongono la strada per Giorgio, perché di solito non mi risulta che si faccia una strada intestata ad una persona che vive e vegeta, no? Si ricordano le strade ad uomini che sono state qualche cosa. Ho capito, e allora, siccome loro si sentono molto, io prego il buon Dio che gli dia una vita brevissima. Addirittura, pure ad Alemanno. Il popolo si preoccupi di intestargli una strada. Pure ad Alemanno. No. Pure ad Alemanno. Soprattutto ad Alemanno. Cioè, deve morire subito. No, non è che deve morire subito. Deve pensare a farsi costruire una strada. Visto che lui è in continuazione, lo prego, gli dico lascialo perdere, ne ha 260, gli possono bastare. Giorni fa, ad Affile, giorni fa, non più della domenica precedente, è stata inaugurata una piazza intestata a Giorgio Almirante con una sua statua bellissima. Addirittura. Vabbè, perché non si può fare? Perché non si può fare anche a Roma? Scusi, donna Assunta. C'è stata una bella messa e dopo con la banda che mi ha veramente commosso sono andato a salutare anche l'ex generale Graziani che vive e è morto e c'è la tomba da generale, generale Graziani. Scusi un attimo, donna Assunta. Invece di fare tutto sto chiasso che facciano cose serie, invece di pensare alla strada di Almirante, che vada, che mandi a pulire il cimitero, ecco. Invece di pensare alla strada di Almirante, che nasce la commedia e il fatto che gli vietano di nominarlo, che ha avuto una vita così intensa e così bersagliata, perché uomo capace, uomo onesto. Scusi, ma poi sapeva guidare o no? Che lo hanno perseguitato, ma lo vogliono lasciare dormire almeno adesso nella sua tomba e farla addormentare sereno dopo 40 anni? Alemanno, lascialo in pace. Ecco. Alemanno, lascialo in pace, su, lascialo. Almirà, lascialo in pace, per piacere. Per piacere, basta. Per piacere, non tormentarlo più. Oh, benissimo. Senta, ma poi sapeva guidare, a proposito di strade, suo marito. No, lui non sapeva guidare. Ah, pure. Mio marito si sentiva tanto Schumacher, ma non sapeva guidare. Ma come si sentiva Schumacher? Aveva la patente o no? Eh? La patente ce l'aveva, certo che ce l'aveva la patente. Certo, la patente ce l'aveva, non l'aveva presa abusivamente. E gli piaceva guidare? Aveva quella sua casseruola piccola, no? Però era negato, girava, tant'è vero che io sono praticamente rovinata e questa è una bella dote che mi ha lasciato, cioè, un'eredità moltissima, cioè? Ed è praticamente di un piede che mi funziona male, ecco. Per colpa di Almirante? Sì, perché ha avuto un incidente talmente grave mentre cantava, ecco, non che è cantava? Che si era accorto che stava arrivando un camion. Che cantava, scusi? Cantava tutte le canzoni di guerra, sempre. Ah, così, mentre guidava cantava canzoni di guerra. Sì, cantava con i ragazzi, cantava tutte le canzoni. Una cosa pazzesca. Il Piave mormorò, tutto cantava. E intanto, mentre sapeva guidava, cantare, boom. Sapeva anche cantare, era un uomo allegro lui, Vabbè, ha preso una botta. Non era un uomo triste, capito come avete detto poc'anzi? No, non che era triste. Uno che conciliava il sonno. Scusi un attimo, però... Svegliava la gente. Però lei che voto dà ad Almirante per Roma, dove abita? Che voto gli dà come sindaco? Come? Che voto gli dà come sindaco ad Alemanno? Ah, io non lo penso proprio, è come per me non esistesse. Ma perché? Non ha voto. Addirittura? Sì. Ma proprio non lo può vedere Alemanno? No, lei. L'ho cancellato completamente. Cioè, meglio Veltroni è stato? Eh? Meglio Veltroni? Ma senza dubbio. Addirittura? Ma no, non c'è paragone. Ma che le ha fatto Alemanno? A me niente. E allora qual è il suo torto? Nella vita si nasce simpatici e antipatici. Ah, proprio, lei non lo considera proprio Alemanno? No, per me c'è, non c'è. È uguale, non esiste. Pensavo che, essendo un giovane che stava sempre sulle piazze, io quando l'hanno nominato sindaco, e purtroppo gli ho fatto dare i voti, e se non fate dare tanti, me ne pento, pensavo che era un giovane che quindi, essendo un romano, voleva, e invece usava anima e corpo, invece manco per niente, lui sta sempre, credo che si corichi pure con il tricolore per averlo pronto la mattina per fare l'istituzione, solo questo sa fare, per l'istituzione niente, poi sulla città il resto è tutto vero, le strade non si possono guardare, il cimitero non è guardabile. Siamo tutti in una baldoria tale che non si capisce nulla, quindi il traffico, abbiamo una cosa grande, multe a tutto spiano. Grazie donna Assunta, la devo lasciare, a presto. Dove escono praticamente le guardie e lei non lo capisce. La devo lasciare, a presto, un abbraccio. Eccoci qui, cari ascoltatori, 19:15, 800 24 00 24. Io direi di iniziare subito forte, fortissimo, con i titoli del TG3 di Bianca Berlinguer. Prima però voglio farvi ascoltare ancora una volta le fantasie erotiche di Giuliano Ferrara nei confronti del direttore di questo telegiornale. Giuliano Ferrara e le fantasie erotiche su Bianca Berlinguer e Maria Cuffaro. La spalla di parlare per Bianca Berlinguer subito, perché la amo, quindi. Vabbè, ma lì è un fatto erotico. Erotico, sì, la amo. Amo eroticamente la Berlinguer e anche la... come si chiama quella con quella faccia da indiana bellissima che presenta il TG3? La Cuffaro! Ma meravigliosa! Vorrei avere un flirt. E la Berlinguer insieme. E allora il TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Ho colpito, ma non so perché, a 68 anni il killer di Brindisi fermato per strage. Quanto tempo dovrò stare in carcere, avrebbe chiesto ai magistrati. A Conversano, in provincia di Bari, crollano due palazzine sotto le macerie. Papà, mamma e un bimbo di 18 mesi italo-olandesi. Recuperati i corpi, forse una fuga di gas. Napolitano in Emilia, lo Stato è qui. Commozione nell'incontro con sfollati e volontari. Darò la sveglia a chi si distrae sulla ricostruzione. La vedova di uno degli operai morti nel crollo dei capannoni scrive al Presidente. Ci aiuti a salvare la nostra dignità, le richieste al Capo di Stato. Scambio di accuse e polemiche tra i partiti dopo le nomine alle autorità del no all'arresto del senatore De Gregorio. Sele TV, pagina vergognosa. Monti, i momenti difficili non sono dietro le spalle, stoccata il professore ai cosiddetti poteri forti, perso il loro sostegno, eurocrisi, forte il pressing USA. In Grecia, schiaffi e pugni in diretta TV, il portavoce del partito neonazista Alba Dorata aggredisce due deputate che gli avevano ricordato i suoi precedenti penali. Caro Parenzo, tu non puoi vedere naturalmente quello che ho messo qui, questo manifesto che ho messo qui, lo racconto ai radioascoltatori, quelli che ci stanno ascoltando, i moltissimi che ci stanno ascoltando per radio, perché avete sentito prima l'Italia dei Valori, che peraltro attacca anche per bocca di Di Pietro il Partito Democratico sul voto a De Gregorio e che dice un voto vergognoso per De Gregorio, negati gli arresti domiciliari, eccetera, eccetera. E beh, c'è un magnifico manifesto elettorale che ho recuperato, un manifesto elettorale delle elezioni politiche 9-10 aprile 2006, in cui campeggiano due volti accanto al simbolo Di Pietro, Italia dei Valori con la X sopra, due volti uno accanto all'altro per votare e barrare esclusivamente il simbolo Sergio De Gregorio, capolista al Senato, con un numero anche magari ancora attivo, lo voglio dire agli ascoltatori: 081 610 7331, 081 610 7331. Era il vecchio comitato elettorale di Sergio De Gregorio al Senato, quando ad appoggiarlo in tutta la circoscrizione senatoriale della Campania c'era questo signore qua, cioè Antonio Di Pietro. Sei un'adorabile carogna. Naturalmente è passato tanto tempo, per carità, poi è andato con Berlusconi, eccetera, eccetera, eccetera. Però bisognerebbe ogni tanto ricordarlo. Chi ha portato in Parlamento nel 2006 Sergio De Gregorio? parte. Però uno degli però, audio del giorno, dimmi. Sai, vai, perché io oggi invece farei un manifesto, invece, sì. Ottima questa tua iniziativa editoriale meravigliosa, la sposo in pieno, sì. Ma io farei invece un altro manifesto oggi con la faccia di De Gregorio, la sì. faccia del signor Lavitola e sopra scritto avanti. Beh. Da dove? Avanti. Va poi. Bene, che vogliamo far ascoltare? Beh no, tra gli audio del giorno non c'è dubbio, cioè Monti sui poteri forti, perché bisogna alcune cose bisogna anche ricordarle, no? Monti sui poteri forti e Scilipoti Monti scarsi in economia. Sono due pietre miliari, direi. Monti sui poteri forti, che per me ha definitivamente chiuso, per quello che mi riguarda, l'epoca di Monti. Il mio governo e io abbiamo sicuramente perso in questi ultimi tempi l'appoggio che gli osservatori ci attribuivano, spesso colpevolizzandoci di questo, dei cosiddetti poteri forti. Ti sei messo a dormire nel frattempo? Come? Ti sei addormentato? Mi era venuto un colpo di sonno, chiedo scusa. No, scusami se ti ho disturbato. No, però per caso stai attento, perché se tu mandi Monti mentre la gente è in macchina. Sì, ah, è vero. Tu sei un colpi pazzo tepenato, la gente ci sono dice i colpi di avere un attacco narcolettico, sei pazzo, sei. Ci sono, io già, non devi mai mandare discorsi io già di Monti soffro, mentre io già soffro un po' di narcolessia. Tu sì, soffri di narcolessia, ti voglio raccontare proprio questo. No, qualche no. settimana fa eravamo attovagliati in un posto di Roma, sì. verso mezzanotte, in un orario, anche cari ascoltatori della eravamo in compagnia di una serie di persone molto adorabili. Signor Cruciani, a un certo punto è caduto in catalessi, ma con gli occhi proprio rivolti verso il cielo. È così, è ecco, così, lo ammetto. E non c'era il discorso di Monti. Non no, c'era no, no, infatti per me, non va, per me in realtà non è che serva moltissimo il discorso di Monti, perché però la gente cado in comunque in catalessi. A casa, tu gli fai sentire Monti, è una cosa gravissima. Sì, hai ragione, si addormentano per possono esserci effetti devastanti, sì. Però anche Scilipoti potrebbe far sobbalzare, invece no, Scilipoti fa risvegliare. Monti è scarso in economia, torni sui libri, Scilipoti. Il professor Monti si sta rivelando assai scarso in quelli che sono i fondamenti dell'economia. Forse sarebbe il caso di tornare sui libri prima che ad essere bocciato con conseguenze gravissime sia il nostro paese. Beh, c'è anche Daniela Santanchè oggi che dice: io sono la società civile. Però prima c'è una frase che mi ha colpito in questa storia dei curricula, delle agenzie, l'Agicom, la privacy, cose di cui parla la gente per strada, naturalmente, no? Una frase della signora Augusta Iannini in Vespa. Perché va bene tutto, sponsorizzata dal PDL per quel posto. Però perché dichiarare ai giornali: io volevo tornare in magistratura, rivolevo la toga? La moglie di Vespa. Ma se uno voleva tornare in magistratura, perché non è tornato in magistratura invece di andare all'autorità per la privacy? Forse in alcuni casi è meglio stare zitti. È Bravo. Meglio stare zitti. Santa che sono la società civile. Ma io non devo parlare alla società civile, nel senso che sono la società civile, perché vorrei ricordare che nella vita da sempre faccio l'imprenditore, un gruppo che fa. Vabbè, però così lo siamo tutti. No, ma voglio dire, quindi non è che io nasco. Poi attacca Schifani, sta su una poltrona imbottita, dunque non può dare lezioni su cosa deve fare il PDL, Monti, eccetera, eccetera, la prudenza, gli errori del passato e via. Schifani fa la seconda carica dello Stato e ha altri sistemi enormi, sta seduto su una poltrona imbottita. Io sono una persona del popolo. La poltrona imbottita da una parte e la signora del popolo dall'altra. No, questa storia che è una signora del popolo, è una donna che si è fatta da sola e va benissimo. Dove ti trovi? In una caverna? Dove sei? Ma quale caverna? Ma quale caverna? Ma dove una sei? Caverna. Dove sei? Dove sei? Non sono autorizzato dalle forze dell'ordine. No, a rilasciare dove sei? La mia dove ti trovi in questo? Io sono nello studio a Milano, tu dove sei? A Roma. A Roma dove? Sono a Roma nella zona della 7. Nella zona della 7, ma dentro sì, la 7 o fuori? Dove. Non ho capito, non puoi rivelare dove. Non posso rivelare dove perché alla 7 sì, sto svolgendo un lavoro di indagine accuratissimo per la puntata che ci sarà, anzi questo è giusto ricordarlo. No, non me ne può fregare meno. Donna Assunta, donna Assunta. Sono qua. Eccoci qui, sento io una cosa. Donna Assunta. Ma è vero che vogliono rifare la destra, il movimento sociale, tutti insieme, da Storace a non so chi, la Russa, la Meloni, eccetera, eccetera. Sembra che vogliano rifare la destra nazionale. Lei ci crede? Ma io non credo più a nulla. Vabbè, ho capito. No, sono diventata atea. Beh, vabbè, atea, quello è un altro discorso. Eh no, come non è un altro discorso? Quando uno non crede più a nulla è atea. Dunque, lei non io non credo più a nessuno. Non gliene può fregare di meno, né di Storace, né di Alemanno. Non è che non me ne può fregare di meno, perché io sono un italiano e mi preoccupo della mia nazione. Sì. E quindi siamo in uno stato che fa paura. Oltretutto, anche il Padre Eterno si è scordato di noi. Tra terremoti, adesso i poveri disgraziati che erano venuti a passare le ferie gli sono scoppiate per il popolo del gas. E che dobbiamo fare? Mi pare che c'è qualcheduno che dall'altro ci pensa, no? Quindi dobbiamo la verità, ridere è una cosa piacevole. Ma lei ci crede al fatto che torni una destra nazionale tutti insieme? Ma quelli guarda, che si sono non credo a niente, perché sto popolo ormai è in uno stato di addormentamento totale. Prendono tutti i narcotici. Tutti i narcotici. Tutti, siamo proprio tutti addormentati. Tutti addormentati. Non c'è nessuno più. Ma siamo nell'isolamento totale. Adesso sta tornando fuori Fini, dice che ha 5 proposte. Chi le fa le 5 proposte? 5 proposte shock, Fini. Ma non mi faccia ridere, guarda, che non ne ho proprio voglia. Vabbè, io direi che dovrebbero andare tutti a casa, rifare la legge che noi avevamo. Scusi, perché ride? Perché gli uomini? Perché ride se di Fini? Io invito la gente a non andare a votare. Perché ride? Non vogliamo essere presi più per i fondelli. Anche per il culo, magari. Senta, io lo dico in italiano. Sono molto più educata di lei. Ah, su questo non c'è dubbio. Scusi, possiamo definire il signor Grillo il nuovo almirante? No, che no, Grillo no. Sì. No, perché Grillo nuovo almirante? Ma questa è una stupidaggine. Possiamo? A lei piace Grillo? A me? Ma per carità, che faccio il comico. Si limiti a fare il comico, tanto si sono tante preoccupate di questo povero Grillo, che praticamente i grilli veramente fanno paura perché saltano da un posto all'altro in origine, no? Sì. Quindi, ma lui vedrà che all'elezione nazionale non piglierà un voto. Adesso quello vediamo. Sono fenomeni, no? Che non debbono tutto questo chiasso sull'elezione, queste che sono state fatte le elezioni locali, hanno sempre dato una differenza. E poi vedremo, certo, no? E poi vedremo. Scusate, poi quando è il momento opportuno finisce tutto e si ricomincia da capo. Parlano una settimana, 10 giorni dello stesso personaggio e dopo lo mettono in cantina. Senta, ma se io le nomino la Russa, cosa le viene in mente? La Russa è il padre, era un mio carissimo amico. Vabbè, ma è lui invece? Lui praticamente, pure lui lo vedo, io gli voglio un sacco di bene perché conoscendo tutta la famiglia da una vita, però? Io gli voglio bene, però devo riconoscere che anche lui si è messo a dormire. E dunque a casa pure lui? Basta. Sì, a casa, dorme. Dopo tanti anni a casa pure lui. Gasparri invece, che ne pensa di Gasparri? Un giudizio ma Gasparri è diventato l'amico della Russa. La Russa e Gasparri sono fratelli gemelli, pur non nati dalla stessa madre e dallo stesso padre, sono amici veramente. A casa pure lui. Loro non si sente nessuno più. A sono casa tutti pure drogati. Drogati, sono dormono. Si sono svegliati. Non ho capito che gli è capitato. Scusi, ma Alemanno dice che è manovrato da qualcuno. Io penso che Alemanno non può essere manovrato da nessuno, perché si manovra da sé. Ma lo diceva lei che era manovrato da qualcuno? No, no, io ho detto che si manovra da sé e si lascia comandare da tutti. L'abbraccio, a presto! Un abbraccio pure a lei, grazie. Italo da Como. Io non l'abbraccio, ma insomma... Buonasera. Vada. Ma volevo solo esprimere così una perplessità. Vedo che pressate molto il governo Monti. Ma che pressiamo? Pressate. Ma che pressiamo? Ma tutti stanno addosso, come è normale che sia, abbia pazienza. Sì, ma non pensavate così quando c'era il precedente governo. Ma come non pensavamo? Ma che poi non è che dobbiamo pressare, mica siamo in una squadra di pallone noi, cioè non è che facciamo il pressing, abbia pazienza. No, ho capito, io ho pazienza, però io l'impressione è quella lì. L'impressione è quella, che ce la prendiamo troppo col governo Monti, guardi. No, troppo. Capita no, male lei no, in questo no, caso. No, guardi, su certe cose, ma come Giannino, no? Giannino, sono d'accordo che questo è un governo. Uno stato ladro, però lo dice solo adesso. Lo dice solo adesso? È una vita che lo dice. Su Berlusconi, non ho mai sentito. È una vita che lo dice. È una vita, ma non lo urla. Non ho mai urlato. Per chi ancora non fosse informato, caro Parenzo, questa trasmissione supporta, spinge e promuove il grande referendum popolare, la grande iniziativa Giannino for President. Finché sarò qui e qualcuno mi darà un microfono, io continuerò a dire numeri alla mano, e non per invitarvi a votare un partito, che questo è uno Stato corruttore, che questo è uno Stato ladro, e se voi non reagite è perché vi hanno insegnato non a essere sudditi, ma vi ci hanno fatto diventare con la paura di protestare contro chi vi ruba i soldi dalle tasche e in cambio vi dà servizi che sono inqualificabili. Abbiamo la testa dura, lo Stato ladro, un giorno o l'altro si piegherà, sapete perché? Perché fallisce prima, e noi dovremo dargli una mano a smettere, tassicodipendente, a smettere con la droga, che sono le nostre tasse, i nostri soldi sono finiti. Bilancio degli anni 2000 nel pubblico impiego, 100.000 unità in meno nel pubblico impiego, da 3 milioni e 7 a 3 milioni e 6, eppure di fronte a 100.000 dipendenti in meno nel pubblico impiego, 42 miliardi di euro in più di spesa uscite dalle nostre tasse che sanguinano. Ecco, queste sono le cose che dovreste urlare. Questa trasmissione supporta, appoggia, promuove, spinge la grande iniziativa popolare sul web, dappertutto, Giannino for President. E poi oggi c'è qualcuno che parla di poteri forti, il Corriere della Sera, Confindustria, il Sole 24 Ore, chi più ne ha più ne metta, contro questo governo. A noi si lamenta Monti, abbiamo perso l'appoggio di quelli che ci dicevano essere invece dalla nostra parte, abbiamo perso l'appoggio, e dunque un po' si lamenta, dunque un po' che si tristezza. Lamenta di questo, una tristezza infinita. È la fine di un grande sogno, è come quando finisce un grande film d'amore che scorrono i titoli di coda, è uguale. Sì, sì, è proprio così. E dopo è come questa frase di Monti, mi ricordo un po' come quando fai l'amore, no? Non so se tu ti ricordi. Beh, chiedo qualcosa ogni tanto. Non so, sì. Se ti ricordi. Allora? Ecco, dopo quando uno fa l'amore finisce, cioè lì è pesissimo, gli piace molto, sì, va fare. Sì. E poi però dopo, quando a un certo punto tutto è fatto, dici, hai quasi nostalgia, no? Ma non è un paragone che tiene, secondo me. Comunque, non mi piace. Intanto voglio risentire Mughini, voglio i carri armati contro le elezioni. Carri armati contro le elezioni, perché non cambierebbe nulla. Mughini. Era un po' polemica, diciamo, rispetto a Fassina, no? Che aveva dato quelle dichiarazioni. Le elezioni schiererei i carri armati, purché non si facciano elezioni. Perché con le elezioni non c'è da trovare nessuna risorsa segreta nei cassetti, il giorno dopo le elezioni il debito pubblico è quello che è, la disoccupazione giovanile è quella che è, i soldi che lo Stato deve alle aziende che hanno consegnato il lavoro è quello che è, e posso continuare all'infinito. Le elezioni non smuovono un chiodo. E siamo qui, questa è la Zanzara, abbiamo appena iniziato, 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo, c'era Italo, Italo, concluda. No, volevo concludere che a proposito. Però tolga questo viva voce maledetto, questo auricolare. Mi sono fermato in macchina. Allora? E allora il manifesto elettorale per quanto riguarda Giannino potrebbe essere quello della vecchia reclame del Lucido Brill, di anzi se parla reclame del Lucido Brill. Ecco, potrebbe essere magari un'idea per questo. E qual è? Scusi, non ho capito. Non ho capito bene. Un manifesto. Ma qualche cosa c'era scritto su sto manifesto? E che Lucido Brillo c'era appena le scarpe, c'era un tipo che ricorda Giannino. E perché dovrebbe? Ah, perché lei dice si è rifatto il trucco. Esatto, sì. Vabbè. Arrivederci, Pierluigi. Grazie, da Latina, buonasera. Come lo ha liquidato, poveretto? Pronto? Sì, buonasera, dica Pierluigi. Sì, volevo dire che voi ve la prendete con Monti, vorrei. Ma chi se la prende con Monti? Ce la prendiamo con Monti per questa frase che ha detto, ma lei non capisce proprio, eh. No, cioè, come non capisco? E allora? Ho capito benissimo che ve la prendete con Monti per quella frase che ha detto, no che non capisco, a parte che ero ironico. Però lui non attacca nessuno in sostanza, lui dice solo che ha attribuito dei poteri, che l'appoggio dei poteri forti e che ora l'ha perso e basta. Sì, ho capito, però prima aveva detto che questi poteri forti non esistevano. Sì, infatti anche in questa frase lui dice che non è che ha perso, secondo quelli che gli attribuivano l'appoggio dei poteri forti, adesso lo ha evidentemente perso. Mm. Ma però io non vedo nessuna, anche nella frase successiva non è che vedo attacchi particolari, ma non c'è un attacco, adesso non è che ha detto un attacco, sa, poi Monti non è che attacca come fanno gli altri, però dicendo che non ha l'appoggio di quelli che sono chiamati poteri forti vuole dire qualcosa, è un messaggio o no? O nemmeno questo va bene, l'appoggio dei poteri forti, il sì. Messaggio secondo me che vuole dire è che non ce l'aveva nemmeno prima l'appoggio dei poteri forti, ma lui sta facendo solo, secondo la mia interpretazione, sì. Quello che è giusto fare è che perciò prima risultava che ci fosse l'appoggio dei poteri forti secondo quello che faceva, sì. Adesso l'appoggio dei poteri forti non c'è, ma semplicemente perché lui sta facendo quello che ritiene più giusto. Sì, non come mi sembra. Guardi, prima, no? Guardi, io credo che grandi giornali come Corriere della Sera, come Sole 24 Ore, abbiano dato all'inizio un grande credito a Monti. Evidentemente, se adesso ha una posizione critica, non è perché c'è qualche manovra dietro o c'è qualche potere forte, anche Repubblica, è perché vedono, basandosi sui numeri, sui risultati, sulle azioni di governo, che insomma, come ha detto ieri Ferrara qui alla Zanzara, che Monti si è in impasse, si è impantanato. Grazie Raffaele da Bologna, buonasera. Buonasera Cruciani. Vada. Niente, dovete incazzarvi perché... Con che cosa ci dobbiamo incazzare? Con la politica, parlate spesso dei grillini, io non sono un grillino, però voglio dire... Se non candidano PD, cioè lei Cruciani è di destra, no? Parenzo magari è più di centro. Ma guardi che queste qua sono sue classificazioni ridicole, cioè che non hanno senso. Allora, ma perché, voglio dire, i partiti per salvarsi il culo non candidano almeno al 50% giovani under 30? Guardi che lo vuole fare Berlusconi pare che voglia candidare tutti under 35-40, non ho capito bene, eccetera, fare queste famose liste civiche con alla guida addirittura moltissime donne in cui ci sono under 35, under 40, non lo so, non me ne frega niente. Sì, ma voglio dire, tutte stupidaggini, secondo me. L'altro giorno Crosetto parlava della genialità di Cicchitto che legge libri, perché voglio dire, tra i giovani non c'è gente che è molto più avanti di Cicchitto. A voglia, non lo so, può darsi che ci sia qualcuno, può darsi che ci sia qualcuno più bravo, ma insomma. Ma assolutamente sì. Ma non è questione di giovani, non è questione di giovani, anche se ogni tanto questo discorso va fatto, ma non è questione di giovani a tutti i costi. Bisogna vedere quello che uno ha in testa. Per esempio ci sono i giovani del Partito Democratico, i famosi giovani turchi, cosiddetti del PD, quelli molto vicini alle posizioni una volta di D'Alema, adesso di Bersani, eccetera, che secondo me parlano come persone dell'Ottocento sul lavoro e su altre cose. Dunque, in questo caso, di che giovani stiamo parlando? Sotto, giovani di carta d'identità? Si mettono questi giovani sotto vecchi e quindi diventano vecchi. Non è che si mettono sotto vecchi, a me che me ne frega se si mettono sotto vecchi. Io ascolto quello che dicono e quello che dicono spesso è roba antica. Perché dicono quello che dicono i segretari di partito, cioè, io sono stato in politica, conosco benissimo l'ambiente e vi garantisco che i giovani si fanno il culo, scrivono i discorsi che poi fanno i politici vecchi in Parlamento, perché sono i discorsi. Vabbè, poi niente, non lo sentiamo. Invece deve andarci la vecchia cariatide Cicchitto piuttosto che qualcun altro. Non ho capito niente, Raffaele, il problema non sono né i giovani né i vecchi, sono le idee. Luigi da Torino, anche se certamente però, un minimo di ricambio ci vuole. Luigi da Torino, dica, no, non c'è più. Mauro da Bologna. Ah, lei ha detto cose sbagliate. Mauro da Bologna. Io mantengo qui il mio cartello, fra poco un grande ospite, il mio cartello, voi non lo potete vedere, cari ascoltatori che siete alla radio. Elezioni politiche 9-10 aprile 2006, barra sull'Italia dei Valori, uno accanto all'altro, di Pietro De Gregorio, per votare e barrare esclusivamente il simbolo, Sergio De Gregorio, capolista al Senato. Vada Mauro. Ecco, dunque volevo intanto dirle che io ho parlato con lei di Monti quando fu praticamente Premier e le dissi che era una persona messa dai poteri forti, adesso si lamenta di non essere più appoggiato. Vabbè. Secondo me è molto semplice, è semplicemente il fatto che ha finito il suo compito, cioè di tentare di salvare le banche, di mettere le tasse sugli italiani, e adesso che stiamo cominciando a pagarle queste tasse, lui se la squaglia per prepararsi alle elezioni. Ma, cioè questa è dietrologia, dietrologia non particolarmente. Dietrologia BB si chiama questa. Non mi sembra una cosa. Ho l'impressione comunque che lui sappia che ha già fatto tutto il possibile per poter tassare e prelevare nel momento in cui c'è la spending review da mettere in campo e soprattutto il rilancio dell'economia, che sono cose difficiline. Allora? Ho l'impressione che se la stia squagliando, solo questo, ma non mi sembra che sia dietrologia, a me sembra invece che siano fatti. Si sta preoccupando di farsi eleggere. E quello può darsi, quello sicuramente è, negli ultimi mesi sta trattando un po' troppo. Sta trattando un po' troppo, infatti, diciamo la verità. Insomma, anche ieri Ferrara lo diceva: troppe trattative. Bisogna agire come dice Luttuak. Rimettetemi Luttuak, vi prego. Come può farlo? Lo fa, propone delle cose, se non vanno bene se ne va. E non è che uno o Monti o il disastro. Io a questo non ci sto. Non è che o c'è Monti oppure sprofondiamo come la Grecia. Non può essere così. Si troverà un'altra persona che deve fare il lavoro sporco che all'inizio doveva fare Monti. Luttuak. Lo scopo di un primo ministro tecnocratico è di essere cattivo, di essere duro, di fare le cose che i politici non sono riusciti a fare. Solo dopo questi tagli si deve arrivare a tagliare pensioni. E siamo qui 800 24 00 24 con Sergio De Gregorio, senatore del PDL. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Bene, grazie. Senta, lei ha la televisione accesa, senatore De Gregorio? Sì. Allora, metta sul canale digitale terrestre 51, se già non c'è. Ok, 51, sì. Sì. Digitale terrestre 51. 51. TGCom 24. Su TGCom 24, guardi che bel cartello che ho ritrovato. Che straordinario cartello elettorale che ho ritrovato. Beh, oggi lei è sollevato innanzitutto, no? Già ieri lo era, giusto? Ma guardi, non avevo grandi dubbi, anche se non mi aspettavo una risposta del genere da parte dell'Aula del Parlamento. Cioè, in che senso? Il voto è andato al di là delle sue previsioni? Eh beh, veda lei. Che ne so, pensava di salvarsi, diciamo, per poco? Ma no, io non dovevo essere salvato. Guardi, ero pronto. Beh, salvarsi è un modo, dire, insomma. Ero pronto a qualsiasi tipo di confronto. Guardi che chi fa il mio mestiere, sì, quello di che ormai è diventato un mestiere, quello che mestiere di difendersi permanentemente dalla giustizia e mette in campo anche la possibilità di essere sconfitto. Fino ad oggi sono riuscito a rimanere a restare incensurato, le sembrerà incredibile, ma è così. No, ma mica ho detto, niente. Perché dovrebbe sembrarmi incredibile? Assolutamente no. Perché vengo descritto come un mostro al cospetto dell'opinione pubblica mondiale e qualche volta anche io mi interrogo sul mio destino. Aspetti, avvicini un attimo la cornetta, se no sentiamo poco. Anch'io mi interrogo qualche volta sul mio destino di imputato permanente. Sì. Perché lei si sente un perseguitato, senatore De Gregorio? Guardi, le faccio un esempio, veda lei se mi devo sentire perseguitato o no. Sì. Nel 2007 vado a fare campagna elettorale a Reggio Calabria. Sì. Esco da un ristorante con 400 persone, torno in Parlamento e qualcuno mi sussurra che ho combinato un guaio. Qualche giorno dopo ero presidente della Commissione Difesa, sono su tutti i giornali e le televisioni indagato a Reggio Calabria dalla Procura per associazione mafiosa e riciclaggio. Questo che significa? Scusi, che significa? Che cosa avrò combinato mai, mi domando. Mi accusavano di aver abbracciato e baciato un mafioso a nome Fitara e di avergli offerto in vendita una caserma dello Stato. Incredibile ma vero, un anno e mezzo dopo, dopo essere stato la volgarità sputtanato in tutto il mondo, un anno e mezzo dopo ci si accorge che il mafioso non era un mafioso ma era un impiegato omonimo delle poste e che non avrei mai potuto vendere quella caserma perché era stata data dal demanio. Scusi, senatore Gregorio, ma perché chi è che ce l'ha con lei? Ma no, aspetti, mi faccia finire. Se non è che possiamo fare quel magistrato viene denunciato dal procuratore. Però lei non mi può raccontare adesso nel dettaglio la cosa, perché sennò non la finiamo breve, più. Quel magistrato è stato denunciato da 3 suoi colleghi al CSM per aver infilato il nome del senatore De Gregorio. Sa come è andata a finire? Come è andata a finire? Uno destinato a una brillante carriera si è dimesso dalla magistratura per non essere processato. Sì. Le sembra che abbia qualche ragione io? No, ma io voglio dire una cosa, scusi, senatore De Gregorio. Al di là di questo aspetto singolo, lei pensa di essere perseguitato da quando è passato con Berlusconi? Ma sicuramente la mia scelta di passare, di ritornare a casa mia, dove stavo dal 94 e dove soltanto per una bega regionale in Campania non fui candidato alla regione nel 2005, certo, quella scelta di ritornare a casa mia mi ha provocato grandi attenzioni e grande anche attenzione mediatica, perché sì. Sa, colpire l'ultimo dei senatori è un fatto, colpire De Gregorio che fa notizia da Bolzano a Canicattì forse fa la differenza. Senta, lei dice sono tornato a casa mia, allora lei nel 2006 sfruttò Di Pietro e basta, diciamo la verità. Ma guardi, nel 2006 io feci un accordo federale con Di Pietro e gli dissi non firmo il programma dell'Ulivo, e lui mi disse sì, ti voglio lo stesso. Perché portava i voti? Perché portavo i voti. Facciamo un accordo a doppia firma e lui accettò perfino la condizione del doppio simbolo, tant'è che in tutta Europa apparvero lì le liste Italiani nel Mondo, Italia dei Valori. Questo forse gli italiani non lo sanno, ma in tutta Europa. E perché Di Pietro accettò la, diciamo, la sua candidatura? Perché lei portava in voto un sacco di voti? Perché sapeva che avrei portato un contributo di voti della regione in cui chiesi di andare candidato al Senato, dove era previsto che il senatore non uscisse, un contributo di voto superiore a quello che aveva. Infatti in tutta la campagna Italia dei Valori incassò 85.000 voti e al Senato, dove votavano meno elettori perché c'è il limite d'età, ne incassò 116.000. Però lei non si può, non si scosti dal microfono, se no non si sente niente. Quei 35.000 voti fecero perdere le elezioni. E niente, no, ogni tanto non sentiamo più, perché lei deve, se si stacca dalla... Mi sente? Adesso la sento, sì, speriamo. Quei 35.000 voti, quei 35.000 voti fecero perdere le elezioni a Berlusconi in tutta Italia. Vabbè, non c'è niente da fare, ogni tanto perdiamo la voce, non so che succede, ma ogni tanto perdiamo la voce. Evidentemente sarà intercettato dai servizi, forse. Ma che ne so, Scusi, dunque, Di Pietro... A Di Pietro servivano i voti di De Gregorio, ma lei ha ancora voti in Campania? Ma io sono uno che si muove molto, per cui ho voti non solo in Campania, ho voti in tutta Italia e presenterò le liste di Italiani nel Mondo alle prossime politiche in tutti i continenti. Scusi un attimo, adesso di nuovo non si sente, vogliamo richiamare un attimo, perché io non ne posso più di questi collegamenti, richiamiamo un attimo il senatore De Gregorio, una cosa mi fa diventare matto, Stefano da Pisa, scusate cari ascoltatori, divento pazzo per questa cosa. Ma no, ma perché poi è la radio, cioè. Stefano, vada. Buonasera, senta, a me mi senti, vero? Niente di importante. Sì, sì. Ma ho telefonato perché ieri ho avuto una piccola gioia, anche significante ovviamente, quando ho sentito dire di Gerry Scotti che sarebbe diciamo sceso in politica col PD e per salvare il PDL, ma mi è venuto in mente, dico, ma qui abbiamo una vera rivista, dunque allora il nano cantante ce l'abbiamo e grazie a lui abbiamo tutte le ballerine che vogliamo, poi c'è il comico, poi c'è il presentatore, dico mancherebbe un mago e mi è venuto in mente una figura di una decina di anni fa, un certo McRooney, alto, allampanato, gli occhi fissi nel vuoto, la faccia assolutamente inespressiva, e chi è? Appunto, non gliene riusciva una, quando faceva giochi e non gli riuscivano faceva e poi per far vedere che invece era bravo e che insomma gli riuscivano bene tutto, apriva il risvolto del frac dove nascondeva tutta una serie di medaglie, per modestia ovviamente, tutta una serie di medaglie che però erano gli attestati della sua bravura. A lei ricorda qualcuno questa figura? No, chi? A me sì. Parenzo. Grazie, chi è? Buonasera. Parenzo? Il mago Forrest, forse. Chi è? Stefano, non ce l'ha detto. Bah. Il mago Forrest. Il mago Forrest può darsi, ma però non lo so, c'è poi, un collegamento con la politica italiana, che ne so. Ma cosa fa l'indovinello? Non lo so, poi abbassa, la sai ultima. Senatore De Gregorio, eccoci qua. Allora. Eccomi qui. Senta, ma nel 2006, però ritorniamo un attimo, nel 2006 Di Pietro cosa le diceva? Che lei era la persona più... Cioè, ma guardi, nel 2006 mi fece un corteggiamento straordinario. Io che venivo da Forza Italia, dal Partito Socialista di Bettino Craxi, non ne volevo sentire parlare. Si riunì il direttivo del mio partito e visto che avevano impedito la mia candidatura ai dirigenti di Forza Italia in Campania, i miei dirigenti chiesero invece che io corressi per... Vabbè, ha deciso lei, che i suoi dirigenti, De Gregorio, ha deciso lei di andare con Di Pietro, perché... No, guardi che io avevo ed ho un movimento... In quel momento lei fiutava... Che non è niente male. No, lo so, quello lo so, però lei fiutava che insomma il centrosinistra potesse essere vincente, diciamo la verità. Comunque lei fece un corteggiamento. No, guardi, invece la mia scelta è stata... Però scusi, lei prima ha detto una cosa molto interessante, che lei si presenterà alle prossime elezioni col suo simbolo in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo. No, guardi, io io personalmente non sarò candidato. Lei non sarà candidato, non no, si candida più. Ho affidato il mio movimento politico sì. a un bel gruppo di giovani sì. entusiasti. Tutti i giovani che vogliono che presenteranno le liste sì. di italiani nel mondo, nella circoscrizione estero, quindi in Europa, in Sud America, ma in Italia? In Nord America, eccetera, eccetera. In Italia? In Italia contribuiremo alla vittoria del popolo della libertà. Popolo della libertà, se esiste ancora, se esisterà, se esisterà ancora. O comunque all'affermazione di un sì. po' di centrodestra. In politica si vince e si perde, mica si piange quando si perde. Senta, senatore De Gregorio, no, beh, però carità. Diciamo chiaramente che ha usato Di Pietro come un taxi, dai, che lo dica chiaramente, fine, va bene. Beh, ma guardi, se non avessi subito sì. un corteggiamento così forte sì. e messo tante condizioni alle quali Di Pietro ha detto sempre sì, per esempio? Per esempio quella di non firmare il programma dell'Ulivo che non andava bene, per esempio quello di presentare. Ma questo corteggiamento a un certo punto come si è esplicitato? C'è stata una frase che ha rotto l'incantesimo di questo corteggiamento? Guardi, è venuto 4-5 volte sì. a incontrarmi e sì. mi ha chiesto: io il movimento politico italiano nel mondo lo voglio con me. E io gli ho detto: metti il doppio simbolo. E lui ha detto sì. E abbiamo messo il doppio simbolo in tutta Europa. E lo so, vabbè, è andata con grande così. Dignità. Senta una cosa, politica. Ma qui c'è una polemica su chi ha votato ieri al Senato sul suo arresto. Mi dica, lei sa tutto, senatore Gregorio, inutile. Guardi, hanno votato un sacco di senatori. Che anche del Partito Democratico, questa è la domanda. Certamente, ma lei pensa che ci siano senatori che non si inquietano di fronte alla storia di un loro collega che per due o tre volte viene aggredito e riesce a uscire sempre innocente? Ma lo sa che non è no, scusi, quanti senatori del Partito Democratico avrebbero votato a suo favore, più o meno? Ah, non lo so, non ne ho idea. Ma lei lo sa, e allora perché lo dice con certezza dato che il voto è segreto? No, immagino che un po' di persone si siano ci ha parlato ho avuto anche qualche contatto di solidarietà dall'altra parte. Anche dell'Italia dei Valori? No, non credo. Dell'Italia dei Valori no, però del Partito Democratico è sicuro al 100%. Credo di aver avuto qualche attestato di solidarietà personale. Personale, no, ma c'è qualcuno che è arrivato lì alla buvette e l'ha detto: caro De Gregorio, io voterò in DC. Qualcuno gliel'avrà detto, perché sennò non può avere. Io glielo vengo a dire in televisione? Alla radio, diciamo. Alla radio? Quello che certo. vogliamo noi è questo, certo. Se no, che è venuto a fare? Altrimenti, che viene a fare? No, le vengo a dire che mondo, sicuramente qualcuno dall'altra parte ha votato per me e io gli sono molto grato. Si vede che non nel suo immaginario non sono il mostro che viene descritto sui giornali. Senta, e la Lega invece che dice assolutamente no, noi, eccetera, là? Ma io guardi, io spero di aver avuto anche qualche voto nella Lega, perché ho avuto dei rapporti personali con senatori della Lega e quando no, spero è sicuro, o è sicuro lei di aver avuto voti. Penso, quando Tele Padania non aveva segnale misi a disposizione, come si fa fra colleghi, sì. il segnale televisivo della mia rete Italiani nel Mondo. Ho aiutato Radio Padania. Non voglio più sentirvelo dire. Come risponde a questo? Tenetevelo stretto il Movimento ha 5 capito? Stelle. Tenetevela stretta questa Italia giustizialista e da processo di piazza. Non ma che mi frega? Non piace a me. Ma io ho fatto la valutazione politica. Aspetta, se la tenga ben stretta, non è il paese che piace a me, non è il paese in cui vorrei veder crescere i miei figli, un'Italia che chiede i processi di piazza, ma per carità, i processi non si fanno sui giornali, si fanno nei tribunali, dove spesso il 50% di quelli che vanno sotto imputazione vengono assolti, se lo ricordi bene. Senta un attimo, De Gregorio, un attimo solo, lei ha parlato con Berlusconi prima del voto? No, non ho parlato. E dopo? Nemmeno. Ma aveva il suo sostegno, gliel'hanno fatto sapere il sostegno? Ma perché non dovrei avere il sostegno del capo di un partito in cui io sono stato, ho avuto l'onore di essere ascritto magari ci aveva parlato. No, ho parlato con molti miei dirigenti di partito e con molti miei colleghi molto autorevoli che mi hanno confermato che il partito sarebbe stato compatto su questa scelta. Senta, ma lei fa ancora la famosa dieta del sondino, se l'ha mai fatta, De Gregorio? Io non ho mai fatto dieta del sondino, a me piace mangiare e qualche volta mi limito come fanno le persone serie, si tappano la bocca e se la cuciono per non mangiare. Una volta andò da Vespa a parlare di diete, se non sbaglio. Certo, perché sono un buon testimonial, mi piace mangiare, del contrario. È l'unico vizio che mi che mi consento, non tiro la cocaina, non c'ho gli harem, non faccio cose che ormai fanno tutti, ma almeno la buona tavola mi piace. Compreso Berlusconi, compreso Berlusconi, non parlavo della cocaina, dell'harem. Ma guardi, però, per quanto riguarda Berlusconi, voglio vedere se venissero a spiare nella sua camera da letto, se per caso la trovano illibato. Ma lasciamo perdere. No, a me sicuramente non mi trovano illibato, su questo non c'è dubbio. E allora, no, però, maraviglia con Berlusconi? No, io non maraviglio con Berlusconi, io stavo facendo una battuta sull'harem, lei dice io non... Lei prima scherzava sul telefono, ma lo sa che io sulla scrivania del procuratore capo della Repubblica di Roma e il ministro Severino ha aperto un procedimento su questa vicenda. C'è una mia denuncia, perché avendo avuto il sospetto che il mio telefono di parlamentare fosse ascoltato, cosa gravissima nonostante la casta di cui parla lei, perché è sancita col carcere per chiunque lo faccia, io non ho pagato la bolletta per un anno e mezzo. 12.000 euro di bollette non pagate, la TIM non mi ha mai staccato. Se lei non paga 50 euro di bollette, la TIM la stacca domani mattina. E perché non l'hanno staccato? Perché mi ascoltava qualcuno. E oggi voglio sapere chi mi ascoltava al telefono, chi era così interessato da intercettare il senatore De Gregorio. Ma a proposito, la casta esiste secondo lei? La casta esiste, guardi, io le posso solo dire che da quando sono in politica mi sono impoverito, ci ho avuto un sacco di problemi e faccio fatica a restare incensurato. Ma ci faremo una bolletta. Addirittura, cioè, stava meglio fuori dal Parlamento? Assolutamente sì, anzi festeggerò il giorno in cui ne uscirò, perché nel 2013 uscirò dal Parlamento, diventerò un uomo libero, ma grazie di Dio un sacco di cose. Ma è un uomo libero anche adesso, è grazie al Parlamento che un uomo libero si può dire. Ma come si permette? No, guardi, io avevo previsto anche di andare ai domiciliari, non mi faceva mica paura confrontarmi con i domiciliari. È una cosa, il carcere è un'altra. I domiciliari è una cosa, il carcere vero è un'altra. Guardi, il carcere è sempre carcere, compresi i domiciliari. Vabbè, i domiciliari. L'invito a stare un mese. No, per carità. È capitato, però è un'altra cosa, no? È un'altra cosa. Lei impazzirebbe. Io impazzirei, chiunque. Io impazzirei. No, ma scusami, ha detto una cosa gravissima, De Gregorio. Che ha detto? Cioè? Che ha detto di grave? Ha detto una cosa gravissima. Dice: io sarò un uomo libero quando non sarò più deputato. Certo, ma è una cosa incredibile. Cioè, i suoi domiciliari sono essere deputato, ma essere vergognati. Aspetta. Perché le dico con serenità, sarò un uomo intellettualmente libero in un'Italia che sputa in testa ai politici e che attribuisce tutte le colpe di quanto sta accadendo a questa classe politica. Non mi sento libero in Parlamento. Mi state subendo e ben vi sta. Pudore. Sì. Vi state subendo e ben vi sta un governo tecnico che da quando si è insediato ad altre lobby europee sta finanziando con la nostra garanzia, con la garanzia degli stati sovrani per miliardi e miliardi di euro le banche. Ma lei mi parla come Scilipoti, mi sta facendo pagare senza pudore il loro debito ai cittadini. Mi sta parlando come Scilipoti, De Gregorio, come Scilipoti mi parla senza lei. Senza pudore. Sono le stesse teorie di Scilipoti. No, lasci stare, sono le ipotesi di chissà che cosa sta accadendo al mondo. Cioè c'è un grande complotto, c'è un grande complotto. C'è un grande una casta di finanzieri internazionali al cospetto dei quali Bin Laden era quasi un bravo ragazzo. E chi sarebbero? Sta facendo pagare il debito. Ma chi sono? Delle banche internazionali agli stati sovrani. Le pare poco? Scusi un attimo, è l'appendice italiana di questi grandi finanzieri è Monti, naturalmente. Non lo so, io so soltanto, che noi stiamo pagando i debiti delle grandi banche. E Monti che ruolo ha? Monti credo che in questo momento abbia contribuito a mantenere in piedi l'Italia, ma in ogni caso credo che una parte di queste classi di tecnici stiano facendo di tutto per tutelare grandi poteri finanziari. Compreso solo Monti. Due parole, solo dimmi. Due parole, dimmi. Senza pudore, pudore. Questo è il giudizio, ma è il giudizio nel giorno di in cui lo hanno salvato ci fa pure la lezione sull'economia, su Monti, ma di cosa io stiamo? Non faccio lezioni a dice nessuno, che si sente ostaggio del Parlamento. Io perché non si dimette? Scusi, ma si dimetta subito. De Gregorio, scusi un attimo, se lei si sente prigioniero in Parlamento, perché non si dimette e torna libero? Guardi, io non mi dimetto fino a fine legislatura perché ho intenzione di terminare la mia esperienza nel rispetto degli elettori. Che vabbè, quello se lei si sente prigioniero lo dice lei. Al termine di questa legislatura lo farò per consentire anche al mio partito quell'azione di rinnovamento che mi sembra necessaria per tutti i partiti italiani. Io lo farò, non so quanti lo faranno, ma non mi interessa. E stia tranquillo che tutto quello che oggi vede come clamore di giornali terminerà clamorosamente, perché senta, non faccio più notizie. Per lei Berlusconi che cos'è? Un padre, un grande capo politico, un grande statista, cos'è? Come lo definirebbe? Berlusconi è un mio amico, sì, che ha avuto anche la capacità di guidare questo paese da statista, imponendosi sul piano internazionale. Sì. Vabbè. Noi abbiamo continuato a intrattenere rapporti internazionali di un certo peso, anche quando avevamo crisi gravissime in casa, come quella energetica. Grazie a Berlusconi. Cioè, grazie ai rapporti personali di Berlusconi. Grazie a Berlusconi. Dunque si stava molto meglio prima, dice lei, no? Quando c'era Berlusconi. Per quella che è la mia visione delle cose, rimpiango molto il fatto che Berlusconi non sia riuscito a continuare la sua esperienza di governo. Beh, era un po' sputtanato, eh? Alla fine era un po' sputtanato, caro De Gregorio. Beh, guardi, la cura da cavallo che hanno, riservato a Berlusconi e che stanno riservando a molti parlamentari del PDL non lascerebbe in vita il più le inchieste queste cose qui. Guardi, siamo alla barzelletta. Scusi un attimo, De Gregorio, però io le voglio far dire una cosa. Lei che pensa di Roberto Saviano? Che pensa di questo scambio con l'Usi, queste cose qui? Dia un giudizio. Guardi, dei suoi, lapidario. Io non lapidario. Penso niente. È uno scrittore, è un giornalista, è un libero pensatore. Sì. Perché dovrei scandalizzarmi del fatto che esprime le sue opinioni? Mi pare che la stia buttando un po' in politica, però è il suo diritto. Che vuole che dica Roberto Saviano, che sa in retroscena della trattativa di Lusi? Ma quante volte è venuto in Parlamento Roberto Saviano per conoscere tutte queste cose? E che ne so? Lusi, glielo domando. In retroscena li conosce chi li vive? Roberto Saviano ha vissuto dietro le quinte della trattativa Lusi De Gregorio? Non ci credo. Se poi vogliamo fare notizia, la spariamo più grossa. Sa, questo è un paese che si sta abituando al fatto che chiunque si alza la mattina ne dice una, la spara grossa. E poi De Gregorio, ma lei ha letto di quella meravigliosa deposizione di una ragazza che si chiama Maristel Polanco, che si travestiva da Boccassini davanti a Berlusconi? Ma guardi, tento a crederci. Ce l'ha detto lei, no, che è tutto vero. Tento a crederci, però se così sarà stato lo stabilirà un tribunale. Grazie a Dio in quel caso c'è un processo in corso, c'è una corte che giudicherà. Se Berlusconi è colpevole di qualche reato lo pagherà con una sentenza, e poi avrà il secondo grado e poi la Cassazione. Ma aspettiamo i processi. Senta, ma rispetto a quello di piano? Ma rispetto a quello che lei a quello che lei dice di sopportare, guadagna pure poco come parlamentare? Rispetto a... Guardi, io ho la metà del mio stipendio sequestrata dai giudici che condannarono Enzo Tortora, mio grande amico, del quale ebbi l'onore di essere collaboratore, perché mentre tutti i miei colleghi di varie estrazioni politiche venivano assolti nei Lei è stato condannato e deve pagare dal reato di diffamazione. Io al tribunale di Napoli, insieme col povero Lino Iannuzzi, venne condannato a pagare un sacco di soldi. E dunque metà del suo stipendio va a... assolutamente la metà. Alla metà. Il resto è pochissimo. Il resto faccia lei. Se uno c'ha un movimento politico, c'ha dei collaboratori da pagare, lei lo sa che adesso gli stipendi ce li hanno abbassati, i collaboratori vanno pagati e non sono soldi che nessuno, nessuno potrà mai appropriarsi, ed è giusto così. Abbiamo qualche lira per pagare le sezioni e le spese telefoniche. Beh, lei nel 2007 ci rimette un sacco di soldi. Ci rimette un sacco di soldi per l'attività politica. Allora, c'è parlamentare e parlamentare. Io ho inseguito il sogno di fare un partito vero. Poi c'è chi questo sogno non ce l'ha, e mica è colpa mia. No, ma lei si sente un po' come Tortora, perseguitato un po' come Tortora, no? No, guardi, io non voglio fare la lagna del perseguitato. Le posso dire che due volte sono stato assolto. Sì. Una volta i magistrati di Napoli chiesero il mio arresto e per ben tre volte il GIP, il riesame e la Cassazione gliel'hanno negato, dicendogli guardi che questo signore è innocente. Allora, un attimo. Non è una novità, vede? No, un attimo solo, che per me è una grande novità, nella mia storia personale non è una novità. Ma guardi, io non la considero colpevole di nulla, per cui non si preoccupi, con me non è un problema. Io finché non c'è una sentenza così con tanto di timbro sopra, definitiva, non considero nessuno colpevole. Luigi da Roma, fra poco ci ricolleghiamo con De Gregorio, Luigi. Sì. Non ti indignare così, Parenzo, mamma mia, sempre indignato. Sei... No, ma non sono indignato di nulla, dico che non voglio mai più sentire sì. da parte di questa classe ma, politica. Ma scusa, scusa, io voglio dire una cosa, no, ma era... Vabbè, no, no, io voglio dirti una cosa. Guarda, no, voglio dirti una cosa. Ti voglio talmente bene. Io voglio dirti una cosa, litigare. A me non me ne importa niente, innocente, colpevole, questo lo deciderà la magistratura. Appunto. Ma spiegami una cosa, è proprio così decisivo il fatto che uno vada agli arresti domiciliari? Lo so, sì, tu mi dirai, non lo decidi tu, lo decide qualcun sì. altro, eccetera, eccetera. Ma è proprio così, come dire, per te indispensabile che qualcuno vada agli arresti domiciliari? Se non ci va, perché certamente in Parlamento c'è una protezione dei colleghi, bravo. Chiamiamoli così, bravo. Dei colleghi, il processo va avanti lo stesso, non succede allora, nulla. Allora, glielo voglio dire in faccia, De Gregorio. È qui collegato, diglielo pure in faccia. Allora, io glielo dico in faccia, ma non ho nulla contro De Gregorio, non sono tra quelli che dice è ontologicamente, proprio anche da un punto di vista fisico, una persona che si fa odiare, non sono di quel partito lì, non chiedo che... Quella è una roba lombrosiana che veramente appunto. Grida vendetta. Esatto, io non sono tra quelli ma chi lo dice questo qua, De Gregorio? L'ha detto perfino Grillo. Addirittura? A me fa siccome a me fa schifo Beppe Grillo, l'ho detto più volte, non sono tra quelli che dice è grasso, è sudato, è repellente, guardatelo quanto è cattivo, non sono tra quelli, perché sono argomenti stupidi e idioti. Io dico che non voglio mai più sentire da De Gregorio e compagnia lamentarsi contro la cosiddetta antipolitica dopo che il voto di oggi ha salvato salvato il signor De Gregorio. Ma salvato da che? Da che cosa salvato? Dagli arresti domiciliari? Che cosa? Dagli arresti domiciliari. Il processo va avanti, l'indagine va avanti, il processo ancora non c'è, ma insomma l'indagine va avanti sulla questione dei fondi all'avanti. Le dico di più, mi saluti la vittoria, se lo vede, ma proprio per abbreviare i tempi di giudizio, abbiamo chiesto un cosiddetto incidente probatorio che anticipa i tempi di giudizio, portando, incanalando tutto immediatamente. Senta, lo sai che ha scritto oggi Riccardo Barenghi sulla stampa? Meglio un innocente in galera che De Gregorio in Senato, eh? Era una battuta. Ma guardi, no, questa sì, è so la che solita era una roba che mi sento dire dall'inizio. Mentre all'inizio me la propinarono come una battuta, c'era un mio collega del PDL, il senatore Giuliano, che diceva De Gregorio mi sembra l'omino Michelin, lo diceva con carineria, e qualcuno invece ha strumentalizzato il mio aspetto fisico come una roba inquietante. Ora io c'ho un po' di sovrappeso, sono stato un giovane quanto ragazzo, pesa lei? Quanto pesa? Quanto pesa 110 lei? Kg un po' troppo, di sovrappeso, sono stato un giovane ragazzo magrissimo, che ha girato il mondo, ha fatto il giornalista, ha fatto l'inviato di guerra. E com'è che è diventato 110 kg? Sono diventato 110 kg perché magna come la danna. Nella vita ho combattuto, e allora quando combatti poi ti innervosisci, il nervosismo lo sfoghi nel cibo. Tutto qui, ma niente. Ma lei per esempio cosa mangia per ingrassare così tanto? Ma non mangio niente di particolare, e ho naturalmente un livello di assorbimento superiore alla media, e quindi anche se bevo acqua e non mangio niente, normalmente a pranzo salto. Ingrasso lo stesso. Però mi dico una cosa, quali sono i senatori del PD che sicuramente hanno votato contro il suo arresto? Non lo so, e se lo sapessi non glielo direi. Lo so che non me lo vuoi dire. Quello che le posso dire è che non è stato un voto da poco, è stato un voto forte dell'Aula, molto forte rispetto a quello che ci aspettavamo. Vabbè, quello me l'ha detto. L'Aula, voto... io ho voluto parlare. Ringrazi qualcuno, ringrazi la Lega per esempio, la Lega di Maroni, faccio un bel ringraziamento. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. Ma perché la Lega rinnega? Perché la Lega Maroni rinnega il fatto che i senatori della Lega hanno votato contro il suo arresto? Ma lasci stare, poi voglio dire, ognuno fa il suo mestiere rispetto al suo elettorato. Io ho violato. È una finta quella di Maroni, però. No, non lo so, io apprezzo molto Maroni e non ho mai avuto rapporti polemici con l'uomo, perché dovrei cominciare. Ma lei è parente di Concita De Gregorio, no? No, non sono parente di Concita De Gregorio. Ascolti, ho violato l'indicazione dei miei stessi colleghi che dicevano che non dovevo parlare in aula. Ma io ho una storia giudiziaria così inquietante per chi la ascolta, che l'ho voluta ricordare ai miei colleghi, e sono rimasti fortemente impressionati. Lei dice, senta, ma il presidente del Senato, Schifani, che attacca Berlusconi dicendo che deve fare mea culpa? Ma mica lo attacca, io credo insomma, un che po' lo attacca, Schifani dice... abbia un'idea di che cosa dovrà essere il PDL alla fine di questa legislatura, e se ce l'ha è bene che la espliciti, perché Schifani è un pilastro prima che delle istituzioni, è un pilastro che proviene dalla forza di questo partito. Senta una cosa, lei con Di Pietro ha ancora rapporti? No. Di nessun tipo? Da quant'è che non vi sentite? Da quando me ne sono andato. Ah, da quando sei andato? Non era facile stare con Di Pietro, se ne sono andati tanti dopo di me, non sono l'unico traditore, come dice lui, che ha fatto il Giuda nei suoi confronti. Avere a che fare con Di Pietro è complicato. Mi dica, sul piano caratteriale. Perché? Mi dica perché è complicato avere a che fare. Ma perché è un po' prepotente, perché si comporta con i suoi deputati e i senatori come se fossero scolaretti. Io non ho il carattere giusto per subire le angherie. Senta una cosa, ma è vero che lei ha preso 1 milione quando andò da Berlusconi per la No, l'ho preso per la campagna elettorale del 2007 con un accordo federale scritto, perché nel 2007 ho fatto una campagna elettorale col mio simbolo in tutta Italia, ho eletto 100 consiglieri comunali e provinciali da Pieve Emanuele fino a Trapani. Per 3 mesi mi sono spostato senza mai dormire nello stesso letto. E Berlusconi gli ha dato questi soldi. E Berlusconi ha voluto finanziare il mio movimento, ma dichiarando il tutto alla Camera dei Deputati. No, ma questo è chiaro, però non casualmente dopo che lei è passato. Passato nel 2006, la campagna elettorale del 2007, si è ricordato l'anno dopo. Appunto, no, magari c'è un accordo precedente. No, sono stati finanziati tutti i piccoli partiti del PDL, e non è il caso che io, il PSI, la DC per le autonomie, siamo tutti nel novero dei cofondatori. Sì, però scusi De Gregorio, io sarò, scusi senatore, io sono l'ultimo degli stupidi probabilmente, e mi considero l'ultimo degli idioti. Però se uno viene finanziato un anno dopo aver fatto un'operazione politica che è quella di passare legittimamente da una parte alla qualche legittimo sospetto, ma dico qualche legittimo sospetto. Lei dovrebbe fare legittimamente una campagna elettorale una volta nella vita, io lo dico sempre. E se la paghi lei la campagna elettorale? Chi fa il solone senza averla mai fatta dovrebbe sperimentare. La invito a contare i suoi voti, conti quanta gente le vuole bene, quanta gente riesce. Ma lei ha ancora un sacco di voti. Lei ha ancora che quando uno prende 150.000 o 200.000 voti nel paese si può dire un fenomeno, li prende facendo campagne elettorali pesanti che hanno bisogno anche di risorse. Ma lei è un fenomeno, lei si considera un fenomeno? Guardi, io ho contato fino a 200.000 voti uno dietro l'altro. E dunque si considera un fenomeno? No, non mi considero politicamente un fenomeno. Considero uno capace di attrarre, non so se chi mi giudica e fa lo scienziato ha la stessa capacità. Senta una cosa, De Gregorio, ma ancora ce li ha questi voti? Dunque lei è, insomma, porta. Io non lo so se ce li conteremo nel 2013, può darsi che. Ma quello porterò... a lei? Può darsi che ne porterò di meno, può darsi che ne porterò di senta più. Una cosa, la politica è una cosa strana, quando lei, tutti quelli che pensavano di vincere le elezioni nella vita le hanno sempre perse, e al contrario quelli che credevano di averle perse poi le hanno vinte. Senta quando Berlusconi combatteva contro il governo Prodi non gli credeva nessuno. Immaginavano che lui fosse un visionario, lui aveva invece interpretato lo stomaco e la pancia del paese. Ma oggi che fa però Berlusconi? Non mica si presenta più, no? L'ha detto oggi pure che lui. Fa Berlusconi? Che ne so. Oggi Berlusconi farà quello che decide di fare, quello è chiaro. Io il percorso. Che ne so, come lo immagina Berlusconi? È un uomo pieno di risorse. La pazza idea quale potrebbe essere, lei che sa tutto? Ah, non lo so, guardi, sicuramente se gli potessi dare un consiglio gli direi mettici in panchina per un giro, tutti noi che abbiamo un'età anagrafica, abbiamo delle storie anche controverse, e metti davanti alla barricata un esercito di giovani, sorridenti, puliti. Belli, sorridenti, puliti poi? Puliti e non credibili, perché il PDL da qui alle elezioni cercheranno di farlo a poltiglia. E invece lui deve mettere in panchina. Io credo che la migliore risposta sia mettere davanti alla barricata un bel po' di ragazzi giovani, pieni di idee, pieni di buone intenzioni, non c'è dubbio, entusiasti, che possano conquistare il paese anche nel suo nome, dando soddisfazione. Puliti, puliti. Assolutamente puliti, e non perché noi rappresentiamo la parte sporca del PDL, per carità, no. Ma perché noi che abbiamo operato potremmo aver sbagliato, e fin quando non arriveremo ai processi l'Italia non lo saprà. Troppo semplice combattere con gente inchiodata alle sue responsabilità giudiziarie. Parenzo, che vuoi? Dimmi. Voglio dire solo una cattiveria, ma De Gregorio, come battagliere, non si offenderà. se lei mi trova un giovane, un solo giovane, pronto a militare al suo fianco per i valori del suo movimento, che è nobilissimo, perché mi telefoni 347-39 del numero. Mi dia il numero che gliene faccio conoscere un po'. Benissimo, io voglio sapere uno e, che io le dico uno un'altra che, cosa, vede. Uno che si alza e mi dice: io sono con De Gregorio, io giovane ventenne lotto per De Gregorio. Un'altra cosa, lei mi non telefoni. Ti prenderà, lei non mi telefoni. Prenderà, ma De Gregorio è uno che alla mattina alle 8 tutto il mondo sa dove trovarlo. Ma che c'entra? Lo trova in chiesa davanti al nostro Signore a pregare per lui e per gli altri. Le assicuro che chi lo conosce lo reputa un po' meglio di quello che viene descritto. Senta, ma è vero come dice la Vitola che lei ha preso soldi da tutti gli usurai della Campania? Questo non è vero. Io sono indebitato presso molti sostenitori del mio movimento, ma non presso gli usurai. Quanti debiti ha? Devo parecchi soldi ai miei sostenitori. Quanti? Mi dica una cifra. No, non mi lasci stare. Che ne so, 3 milioni, 2 milioni? Mi lasci stare, queste poi sono cose che ho detto già ai magistrati, quindi mi consenta di barricarmi dietro il segreto. No, lei è indebitato con i suoi militanti? No, con i miei sostenitori. Con i suoi sostenitori che non sono gli usurai, allora? No, che sono imprenditori che mi hanno... aiutato. Non sono usurai, dunque, e non pretendono interessi. Della quale non mi pento. Non pretendo l'interesse. Non mi posso pentire della mia storia. Non vedrà mai De Gregorio pentito. L'abbraccio, a presto. Arrivederla. Siamo qui 800 24 00 24, fra poco anche rimetteremo di nuovo in onda la nostra grande iniziativa, Parenzo, quella di Giannino for President, Su questo sono d'accordo. Che sta riscuotendo un grande successo, come un grande successo ha riscosso l'intervento del senatore De Gregorio qui alla Zanzara, un grande successo di pubblico e di critica soprattutto. Devo dirti che bisogna riconoscere che ci mette la faccia, il corpo, lotta, risponde, perché da questo gli dà merito, onore. Carla da Roma. Ma mi senti bene o no? Sì, più o meno, con i soliti problemi, chissà dove sei. Va bene, lasciamo perdere, dai. Carla Cruciani. Di Roma, Carla, dica. Cruciani, buonasera. Sì. Veramente non lasciamo. Cruciani, buonasera. Una cortesia. Sì. Vorrei rassicurarla, noi sentiamo perfettamente, è lei che non sente in studio, non abbiamo alcun problema, mi sembra la De Filippi che è terrorizzata di fare l'acquario, che non che gli levi non l'auto. C'era l'intervento di De Gregorio, centrale, importante, lei interrompe, non lo faccia, sentiamo perfettamente. Ma non si sentiva niente, su, quando parlava piano. Ma non è vero, piano. È lei che... Allora, si riascolti, aspetta lei di fare... per cortesia, è migliore l'ascolto, mi creda. Ma che vuole? Grazie, la ringrazio molto. Va bene, Carla, grazie. Luigi, ognuno, per carità, è libero di pensarla come vuole. Eravamo con Luigi da Roma, sì. Con Luigi da un'ora. Scusi, Luigi, dica. Eccomi, sono Luigi. Dica. Buonasera. Senta, data la bravura che avete acquisito in questi ultimi mesi, aumento il mio cachet della commedia, attenti quei due di Radio 24, da 1 milione a 1,5 milioni. Sono pronte le musiche, lo script, tutto quello che occorre. Poi, e i soldi chi ce li dà? Io. Sono il mediatore di un grande produttore americano. Questo è buono. Lei. E poi voglio aggiungere, qui siamo al visto top, che Donna Almirante ha toccato il tasto di Faccetta Nera, che... io venendo da quei territori, Faccetta Nera è stato clonato da New York, famosa commedia musicale americana, che ha ricopiato la melodia di Faccetta Nera. Non penso proprio. Si chiama La Follia. E Faccetta Nera no, che ha delle parole magnifiche. Se tu dall'altopiano vedi il mare, che è una poesia magnifica. E poi New York dice... Start spreading the news. E Faccetta Nera fa... Faccetta Nera... Uguale, allora, ma dove è uguale? Ma uguale cosa? È la melodia uguale, signor direttore. La melodia, ma non è così, direttore. Luigi. Non è così. Ma quale Poverino. Melodia uguale? Ma come non è così? Ma lei la musica la conosce? No, ma dagli ragione. Ma scusi, ma com'è che fa? Scusi, bravo Sancho Panza, bravo, ha ragione. Mi dia... Com'è che lo chiama Parenzo Sancho Panza? Sì, Sancho Panza perché è il suo scudiero, no? Dai, ma dagli ragione, sì. Scusi Luigi, non ho capito, com'è che fa? Col caldo. Allora, senta direttore. Sì. Start spreading the news, Faccetta Nera. La musica è uguale, è matematica, è uguale. Mica sono... No, ma è evidente, ma è chiarissimo. Allora, dunque, perché New York, Lisa Minnelli si è riempita di soldi. Lisa Minnelli. E uno se canta una persona canta Faccetta Nera viene incriminato. Ma scusi, ma guardi che non mi sembrano uguali le due canzoni. No, adesso, rifaccia un po' New York. Start spreading the news. Così è l'attacco di New York. Okay? E invece Faccetta Nera? Faccetta Nera. Ma scusi, ma dov'è? Perché dovrebbero essere uguali? Ma che ti metti a discutere di questo? Ma perché? No, ma voglio capire. Chi è che parla? Lo scudiero? Sì, lo scudiero. No, ma dico, perché ci si mette a discutere coi matti del sole, che il sole tramonta su? Allora, io vi alzo il cachet della commedia musicale, sì. Attenti a quei due di Radio 24, sì. A 1,5 milioni. Vabbè, terra è piatta. La terra è piatta, c'ha ragione lei. Va bene. Grazie, Matteo da Bologna. Non parla di Galileo, quello lì. Non ti devi mai mettere a discutere con uno che è visibilmente. Non si fa di mettersi a discutere con uno che. Capito? Non si fa. Matteo da Modena, grazie Luigi, grazie. Buonasera. Dica. A parte il fatto che io lei la considero un giornalista di secondo ordine. Perché non di terzo? È meglio di terzo, perché secondo? Perché purtroppo quando si intervistano solo puttane e mafiosi non si fa giornalismo ma si fa spazzatura. La lascio parlare, Matteo, guardi, non ho voglia di combattere. Guardi. Io volevo soltanto chiedere, lei, secondo lei quali sono le puttanate che dice Beppe Grillo? No, questo lo diceva Coso, lo diceva Parenzo, puttanate di Grillo. Lo dice anche lei delle volte. Ma qualcuna volta, in alcuni casi ho detto che quella che aveva detto... Quali sono i casi in cui Beppe Grillo... Il Tribunale del Popolo, io ne posso enumerare tante, il Tribunale del Popolo per i politici, per esempio... Quindi non si può fare nulla contro questi politici, diciamo. No, scusi, in che cosa consiste il Tribunale del Popolo? No, perché sembra che... No, in che cosa consiste il Tribunale del Popolo? No, a me sembra Ma lei non lo sa neppure, non sa rispondere, no. Perché non c'è risposta a questa puttanata, capito? No, finché si continua a discutere Bersani, Berlusconi... Sì, ma lei sta parlando di altro già, sta parlando di un'altra cosa. In che cosa consiste? No, la domanda è molto precisa. In cosa consiste il Tribunale del Popolo proposto da Grillo? Ma posso dire? Non esiste, non può esserci. Può essere rendere pubblico tutte queste cose che fanno i politici. Ma non lo sa nemmeno lei, non lo sa dire perché è una puttanata questa cosa ma qui. Insomma, ma gliene ho elencata una, ma gliene posso elencare altre 5-6, magari dice anche delle cose corrette, altre cose una puttanata. Tra l'altro recentemente ho anche detto che invece sulla questione del finanziamento pubblico, secondo me aveva ragione lui, che ci vuole un tratto di penna. Tac, per togliere il finanziamento pubblico ai partiti, per cui di cosa sta parlando? Ma non si poteva provare a rendere pubblico tutto quello che succede in Parlamento? Ma perché non è pubblico quello che succede in Parlamento? Scusi. No, perché quella volta che quel signore entrò con la webcam dentro il Parlamento è successo un putiferio. Ma che c'entra? Quello è un parlamentare che ha ripreso senza il consenso degli altri delle immagini interne. E poi comunque noi non abbiamo mica attaccato Barbato, è Parenzo che peraltro l'ha attaccato. Io non l'ho affatto attaccato, ho detto che aveva fatto comunque una cosa divertente, che non c'era nulla di grave e che certamente non doveva essere perseguito. Ma qual è il punto? Non ho capito. Detto da un giornalista di Serie B, qual è il punto? Il punto è che se continuiamo a parlare di Bossi, di Bersani, ma io parlo del cavolo che mi pare, ha capito o no? Se lei vuole ascoltare bene, altrimenti cambi stazione. E quando questi personaggi non ci saranno più, che assisteremo a dei suicidi di massa? Ma da parte di chi? Suicidi di massa allora, di chi? Possiamo liberarci di queste persone e provare con i giovani? Vada alle elezioni, quando ci saranno le elezioni, mette lì la bella scheda, perché così funziona la democrazia, e voti per chi le pare, per il Movimento 5 Stelle, per i giovani, per chi le pare, così funziona. Gli altri non è che sono dei banditi, ha capito? Non è che quelli che non votano come lei sono dei banditi, dei criminali. Ma magari qualche bandito c'è in Parlamento. Sì, qualcuno ci sarà pure, sicuramente. Ma non è che quelli che non votano come lei sono dei banditi, dei criminali, ha capito? No, sono tutti i mafiosi che intervista lei o do le puttane di Berlusconi. Sì, tutti quelli che non sono dalla parte sua sono tutti mafiosi o puttane. Benissimo. Non ho mai detto questo. Io ho nominato Bersani e Berlusconi, destra e sinistra. Benissimo, tutti mafiosi, Bersani e Berlusconi sono due mafiosi che vanno con le puttane. Questa è la sua idea? Io ho nominato destra e sinistra, non ho nominato tutti. Ok, allora a destra e sinistra cosa? Questo è il tipico elettore di Grillo, tanto per capirci, insomma, tipico sostenitore dell'elettore di Grillo. Tutti mafiosi, mafiosi, puttane, tutte così. Cosa c'è di male a essere un elettore di Grillo? Mi metto le mani, no, ma nulla, ma io sto dicendo. No, è per l'analisi che lei propone. L'analisi, tutto in questo modo, vabbè. Se gli piace così, ma non è vero che ci sono le puttane. Sì, non è, beh, certo, ce ne stanno tante di buttare su questo. Non è vero che ci sono i mafiosi? Sì, sì, sì, ma certo, ci sono i mafiosi. Allora che ragionamento le grandi analisi, noi per carità non ne facciamo nemmeno, però mi... Ma io che ragionamento sbagliato ho fatto? No, no, tutto corretto, ma tutto lei è giusto. Mette tutto in un calderone, ma comunque va bene così. Guardi, è molto semplice. Le piace che voti che io non mi rompo i coglioni, però, cioè, con la mano, non è che gli altri non è che gli altri sono dei criminali. Gli altri fa schifo, cioè, non mi rompo le palle. Un attimo solo. Pronto? Dai, finiscila, su. Un telefono che squilla, la zanzara molesterà. Chi è questo? Proviamo fra qualche minuto dopo il traffico, Ma chi è questo? Ida da Varese. Se lo dico, poi magari se ne accorge. Ida, dica. Io vi sento molto lontano, comunque vi ecco, parlo. Qualcuno dice che quando io prima... Scusi un attimo, Ida. Qualcuno mi dice che quando prima io ce l'avevo con De Gregorio perché non si sentiva bene. In realtà si sentiva benissimo, ma non è così. Perché De Gregorio lasciava la cornetta, evidentemente parlava con... con la bocca non attaccata alla cornetta del telefonino e dunque sentiva male, c'era poco da fare, sentiva male, inutile dire stupidaggini, sentiva male, non è che sento male solo io, non è che ho l'orecchio distonico, Ida dica. Renzo, complimenti perché riuscite a sopportare le bestemmie che dicono tutti i nostri politici, la maggior parte perlomeno. Poi? Allora, volevo solo dirvi che la sfrontataggine anche che hanno è immensa. Vi faccio i complimenti di tutto e poi ci sarebbero tante di quelle cose da poter parlare anche ma sfrontataggine di chi? Di Gregori, prima senta, dice che lui si starà bene quando uscirà dal Parlamento, ma esca subito, chi le dice di rimanere? È quello che gli ho detto anch'io. Cruciani, se avessero un po' di dignità nel coraggio da abbandonare, ma siccome il seggiolino serve, e allora sa, forse anche quello da Mungitore le va bene, e per cui tutto questo, guardi, io seguo sempre la vostra trasmissione, bene. Devo dire che avete grazie, veramente... Grazie, grazie. Gianluca da Livorno, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Io sono il famoso sadomasochista che l'ascolta, non so perché, vabbè. E vabbè, quello succede a molte persone, non certo, si certo, certo. Niente, io telefonavo perché volevo proporle di fare un nuovo programma, un nuovo format. Sì. Potrebbe anche essere televisivo, però televisivo dovrebbe andare in onda in tarda serata perché è un po' forte come tema. Lo intitolerei alla faccia come il culo. Come lo intitolerebbe, scusi? Han la faccia come il culo. Ma chi c'ha la faccia come il culo? No, seguivo la Di Gregorio, ma poi c'è anche gli altri che solitamente vengono lì ospiti. A lei ci sta proponendo un titolo, ho la faccia come il culo. Han la faccia, hanno la faccia. La faccia come il culo. Benissimo. E poi le nomination, i voti e vince chi c'ha la faccia più a culo. Sarebbe una bella gara, comunque. Ma non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio. Penso l'unico problema sarebbe la moltitudine di ospiti, filtrarli e classificarli perché ce ne sarebbe proprio un numero. Io con questo titolo lo vedo bene su Rai 1 in prima serata. Il professor Monti si sta rivelando assai scarso in quelli che sono i fondamenti dell'economia. Forse sarebbe il caso di tornare sui libri prima che ad essere bocciato con conseguenze gravissime sia il nostro paese. Solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora mia, ancora mia, per patria e figli e per chi ancora verrà, per un futuro e per chi lo vorrà. Resta sempre il top questa canzone, Solo un solo cuore, un'unica idea. In questo mondo di ostinata follia, per ritrovare il valore che ha la nostra vita intanto che va. Un solo cuore, tutti coro, l'unica idea, perché insieme che la storia si... Quando si chiuderà questa fase storica rideremo di tutto questo. L'unica idea. unico Dio pure. No, io non ci sono manco per niente, guardi, comunque. Solo cuore, un'unica idea. De Gregorio salvato al Senato. Per padre e figlio, per chi ancora vivrà. E De Gregorio è al Senato e chi lo sa. Solo cuore, e questa l'idea. Un solo canto, una sola magia. Come che nostalgia, che nostalgia, che nostalgia, eh. E non è ancora finita, non è ancora finita. Era più bella la sigla dei Puffi. No, no, no, questa. Qual è la sigla dei Puffi, scusa? Eh? Qual è la sigla? Noi Puffi siamo così. Na, puffiamo su, che era più bella. Alessandro da Milano, buonasera. Alessandro Milan c'è? Cioè? No, Alessandro da Milano, sì. Alessandro da Milano. Pronto? Alessandro Milano, benissimo. No, vada, no, vada, Alessandro. Buonasera Cruciani, come sta? Non c'è male, me la cavo. Allora, io, siccome ormai il paese è cotto e credo che ci sia poco da fare, volevo proporre un'iniziativa per cercare un po' di distrarci un attimo, cercare di non pensarci, che è il Parenzio Day. O la giornata mondiale di Parenzio, o Parenzio contro tutti. In che senso, scusi? Nel senso che noi ascoltatori un giorno telefoniamo solo per litigare su, con Parenzio, ma su qualsiasi cosa. La politica, gli omosessuali, i comunisti. Ma guardi che il Parenzio Day in teoria è ogni giorno qui sulla Radio 24. No, no, ufficiale si fa il Parenzio Day. Basta per adesso, basta per adesso, caro Alessandro, il Giannino for President. Somari, non fate queste sciocche considerazioni prima di dirmi, capite, che adesso è diventato un centro permanente Giannino contro il governo. Il problema è che Giannino è un liberale, vuole meno tasse e meno spese, e questi mi levano la credibilità, questi qua, gli amici vostri. E beh, grande iniziativa della Zanzara, grande iniziativa, naturalmente Giannino for President per Mari e per Monti, e soprattutto la Giannino Collection, da non avvicinare, lo diciamo subito, da non paragonare alla Borghezio Collection. Maria Pia da Bari, quante donne stasera, sera. C'è anche Anna. Io volevo semplicemente partire da un punto, cioè per quanto riguarda il senatore De Gregorio, si sono avuti 38 voti a favore e 200 rotti contrari. Quindi questo che cosa significa? No, veramente 169 a favore e 109 contrari, proprio per essere corretti. Sì, ha ragione. Se proprio però questo cosa significa? Significa che comunque tra di loro queste persone si difendono, cioè nel momento in cui scusi, Maria Pia, non mi pare che è la scoperta dell'acqua calda, cioè quelli che hanno votato per De Gregorio difendono De Gregorio, gli altri no, cioè ma di che parliamo? Come? Quelli che hanno votato a favore contro l'arresto di De Gregorio difendono De Gregorio, gli altri no. Siamo a Messie Lapalisse fino adesso. Messie Lapalisse. Sì, indubbiamente, quando conviene a loro. Ma che vuol dire quando conviene a loro? Quando conviene a loro, perché nel momento in cui si chiede un voto a procedere per determinati reati che potrebbero essere più o meno gravi, anche come quello di Lusi, per esempio. Sì. Cosa succede? Succede che comunque lo si difende. Ma che ne sa? Ma ancora si deve votare su Lusi. Come? Ancora si deve votare su Lusi. Senta Maria Pia, devo sentire altre persone. Un attimo solo. Anna da Pavia. Buonasera. Buonasera, dica. Prima che lei inizi a maltrattarmi. No, io non la maltratto. No, bonariamente. Io l'ascolto sempre e vedo che dopo un attimino si annoia e diventa incisivo. Comunque, quello che c'era da dire, purtroppo mi ha anticipato Parenzo prima, dicendo al De Gregori che non aveva pudore. De Gregorio. De Gregorio. Sì. Non avevo pudore come non ce l'hanno tanti altri politici. Boh. Noi telefoniamo, noi facciamo. Sì, direi che sono senza pudore, hanno una faccia tosta, si nascondono dietro alle loro posizioni, al loro modo di vabbè, di il punto qual è? La faccia tosta di De Gregorio, cosa ha detto? In generale, Cruciani, non allora andando nel profondo e nello specifico, tutti noi potremmo dire cose di qualcuno, del singolo o dei muti. Io dico semplicemente che oramai, al di là della solita frase, questa classe politica ci ha portato tutti. Ma non abbiamo soluzioni, io non le vedo, non la vedo nel Grilli, nel Grillo, cioè tutto sommato dico, è sicuramente un modo di come dire, un ma lo sai che io in un minuto e mezzo del suo intervento, detto con tutto il rispetto, non ho capito una beniamata cippa. Sì, tranne il fatto che lei ce l'ha in generale con la classe politica, lo registriamo, l'abbraccio e la ringrazio. Sergio da Napoli, Sergio buonasera. Buonasera, dica. Buonasera. Due parole su De Gregorio e vi lascio. Sì. Allora, lo conosco, è una persona gradevolissima, nonostante il suo aspetto fisico non lo dimostri. Beh, adesso, perché? Scusi, ciao, che c'entra l'aspetto humor, fisico ciao. Con la gradevolezza? Prego? No, che c'entra l'aspetto vabbè. Fisico con la gradevolezza? No, comunque, prima, no, è vero, c'è questo aspetto un po' così, un po' ipopotamisco, diciamo così, però insomma, una persona che ha un humor alla Rotondi, un po' meno acculturato, ma più o meno vabbè, insomma, così, però... Comunque, voglio dire, insomma, la gogna mediatica che ha avuto è vera. Bah, probabilmente. La gogna mediatica adesso di Gregorio, sì, insomma, sono altri tutto... che hanno, per esempio, un po' di gogna la subisce la Fornero, perché viene identificata ormai come come la colpevole di ogni nefandezza italiana. Oggi addirittura la leader della CGIL Camusso ha detto che ha la passione dei licenziamenti, cioè la Fornero una stronzata grossa pure avrebbe la passione per i licenziamenti, bah. No, è una cretinata che fa parte di quel modo di parlare, signori. Cioè proporre le riforme sul mercato del lavoro significa essere appassionati di licenziamenti, secondo il capo della CGIL. No, è una boffanata alla Grillo. Bisogna difendere la Fornero proprio con le armi in pugno. Ma si capisce, in questo frangente purtroppo è così. E viva anche Mughini per quello che ha detto. Beh, insomma, sulle elezioni non sono molto d'accordo. Comunque no, la ringrazio, voglio salutarvi tutti. La ringrazio, devo chiudere, voglio salutarvi tutti. Sulle note, sulla musica di... Grazie. Un solo cuore, un'unica idea. Canta con me, Parenzo. Per un'Italia ancora tua, ancora mia. E De Gregorio, che ancora lì al Senato. Con il voto di PD e Lega. Solo cuore, un'unica idea. A domani, 18:30. Per un mondo di ostinata follia. Per ritrovare il valore che ha la nostra vita, intanto che va.